Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotti di allineamenti. Qui è Gas che parla e continuiamo il viaggio su Ciao Radio Como parlando del tennis, che come vi ho detto era stata la mia passione di quando ero bambino. Ho giocato a Villa Olmo, ma soprattutto mi ricordo dei camp estivi dove mi divertivo un sacco, perché uno dei grandi vantaggi del tennis è, oltre al fatto di essere uno sport elegante sì, e individuale, a mio parere è che puoi giocare anche con le ragazze, uno sport che possono fare tutti, e rispetto al calcio ti permette di avere una compagnia, diciamo, un pochino più piacevole, anche se da ragazzo la sfrutti meno. Ma mi ricordo che anche noi ci divertivamo. Allora, abbiamo visto nella puntata precedente Tim Adams con il suo libro Essere John McEnroe, e naturalmente abbiamo parlato di John McEnroe. È stato divertente e interessante andare a vedere come i campioni del tennis, ma dei grandi sport individuali, hanno bisogno, per la propria motivazione, per la propria sopravvivenza come campione, di un giocatore, un rivale, qualcuno con cui sfidarsi. In questa seconda tappa di avvicinamento al grande campione che andremo ad affrontare nell'ultima puntata della settimana, quel Roger Federer che tutti voi conoscete e di cui si sono scritte sia canzoni sia, come vedremo, sia libri sia, come vedremo, canzoni, perché, come vi ho già detto, questa settimana siamo riusciti a trovare una combo incredibile di musica e letteratura. Oggi, per la seconda puntata, andiamo sul libro di David Foster Wallace, che parte con un racconto che si chiama Democrazia e commercio agli US Open, e io partirei proprio dalla copertina di questo libro perché è molto interessante e vi dà un'anticipazione della sfida di cui si va a parlare. In realtà, in tutto questo primo articolettino, oltre a parlare di tennis, si parla degli Stati Uniti d'America, come sempre, con la sua visione critica. David Foster Wallace ci fa sprazzi di tennis e sprazzi di critica al commercio statunitense. Lo andremo a vedere nel racconto, che, diciamo, racconta la storia di due protagonisti. Da una parte Pete Sampras, il campione di passaggio, quello che porta da John McEnroe all'era di Roger Federer, ma che comunque ha vinto un sacco di slam, che questa volta affronta un avversario, Mark Philippoussis. Sembra brutale Philippoussis, spartano, uno grosso e lento che gioca di partenza di potenza da fondo campo, con una cattiveria gelida negli occhi. E a paragone Sampras appare quasi fragile, cerebrale, un poeta, saggio e triste allo stesso tempo, stanco come solo le democrazie sanno esserlo. Io, invece di leggervi un capitoletto come ho fatto la volta precedente, ho deciso di fare una pazzia e questa volta vi proverò a leggere cosa è successo in tutto il libro, partendo da quello che ho sottolineato e arrivando fino alla conclusione. Quindi benvenuti agli US Open del 1995. Ci sono fotografi, cameraman, convergono accoccandosi su di loro come le mosche si accalcano su quello che gli piace alle mosche. I giocatori li ignorano come solo chi è molto abituato alle telecamere sa ignorare le telecamere. Il pubblico è ancora in piedi ad applaudire, una massa di pastello di 20.000 persone in più. Sampras contro Philippoussis. Sampras, pessima postura e petto inesistente. Philippoussis, che cronologicamente è davvero un bambino e dall'alto del suo 1,90 m, con oltre 100 kg di peso, attraversa il campo col piede varo del mastodonte che si sforza di avere il passo leggero. 1.500 cittadini del quartiere del Queens oggi lavorano per gli US Open. sfacchinano proprio questo weekend. Lo stadio avrebbe una capacità di 20.000 persone e ce ne sono come minimo 23.000, quasi tutte per vedere Pete. Quello che si dice un carnaio, insomma, e mi stupirei se entro la fine della partita qualcuno non facesse un disastroso ruzzolente col relativo urlo giù dalle scale, un capitombolo all'indietro del bordo del muretto. Ma a quanto pare, oltre il 50% dei biglietti degli US Open di quest'anno sono stati prevenduti alle grandi aziende che amano usarli per lavorarsi la clientela e far svagare i dirigenti. In parole povere, qui l'aura socio-economica della partita più importante del giorno è imprenditoriale, con buona pace dei lavoratori. Sampras e Philippoussis intanto iniziano il riscaldamento. Sampras colpisce la palla con l'economia disinvolta che caratterizza tutti i veri campioni in fase di riscaldamento. La serena nonchalance di un animale in cima alla catena alimentare. Vincitore di Wimbledon a parte, questo terzo turno ha un fascino tutto suo perché vede fronteggiarsi due greci che non vengono dalla Grecia. Una specie di guerra del Peloponneso postmoderna. Philippoussis, appena 17enne, compagno di Patrick Rafter nei doppi, è appena entrato nella top 10, nella top 100 in questo torneo. In più, sembra avere qualche problema di aggressività da risolvere. Colpisce la palla con tutta la forza anche in fase di riscaldamento. Sembra brutale Philippoussis, spartano, uno grosso e lento che gioca meccanicamente di potenza da fondo campo. Con una cattiveria gelida negli occhi, e a paragone Sampras, che non è esattamente un pallettaro, appare quasi fragile, celebrale, un poeta, saggio e triste allo stesso tempo, stanco come solo le democrazie sanno di esserlo. L'espressione impaurita è la stessa malinconia post Wimbledon che l'ha perseguitato per tutta l'estate. Due rivali etnicamente aggressivi e archetipicamente distinti. Un contrasto non solo nello stile di gioco, ma nell'orientamento di fondo della vita, dell'immaginazione, dell'uso della potenza. Senza contare ovviamente gli interessi economici. Il settore marketing di grandissime aziende, non solo di enormi conglomerati che finanziano il torneo come IBM e Corel, il grosso dei guadagni di quasi tutti i professionisti deriva dai contratti pubblicitari. Ogni singolo luogo e strumento legato a manifestazioni professionistiche riporta qualche tipo di pubblicità. Le pubblicità sulla metropolitana sfruttano il fatto che le cose presentano sia un mucchio di tempo mentale passivo, sia il problema di cose dove posare lo sguardo. La pubblicità sopra i finestrini sono un punto neutro dove dirottare e posare lo sguardo. Perciò, di solito, godono di grande attenzione. Anche il tennis è pieno di tempo passivo, i periodi tra un punto e l'altro, le brevi interruzioni tra un game dispari e l'altro, in cui lo sguardo ha bisogno di distrarsi. L'intero corpo scatta, come di norma solo un polso sa fare. Il malvagio ma siborgiano Philippoussis finora non ha tradito niente che somiglia a una vera espressione facciale. Si direbbe che nemmeno non sudi. Gli US Open sono un grande evento per New York City. Il sindaco Dickens non c'è più, quel Dickens che faceva deviare le rotte di atterraggio all'aeroporto la guardia apposta per gli US Open, ma anche sotto Rudy Giuliani per due settimane, una città che di norma non darebbe un soldo bucato per uno sport aristocraticamente privo di contatto fisico come il tennis, la città mostra grande partecipazione. Il fatto che Sampras abbia vinto tantissimi grandi slam c'entra forse molto col fatto che le partite maschili degli slam siano al meglio dei 5 set. Il meglio dei 5 set richiede non solo resistenza fisica, ma uno speciale tipo di flessibilità emotiva. Al meglio dei 5 set non puoi giocare sempre al massimo dell'intensità. Devi sapere quando forzare e quando tirare i remi in barca e risparmiare le risorse psichiche. Philippoussis ha vinto al tie-break un primo set in cui Sampras ha dato l'impressione di regolare il minimo del suo gioco, di cercare il livello esatto che gli serviva a raggiungere. La suspense della partita non è se Sampras vincerà o meno, ma quanto tempo dovrà impetterci e quanto tempo gli chiederà a scoprirlo. Philippoussis picchia duro, ma se l'immaginazione gli fa difetto, la flessibilità non sa nemmeno cosa sia. Ogni volta che vedo giocare un tennista in uno slam, provo una speciale compassione empatica. Sampras, invece, sembra aleggiare come forfora per tutto il campo. Philippoussis somiglia a un grande e temibile esercito. Sampras è più navale, della scuola che manovra e accerchia. Philippoussis è oligarchico, ha una volontà e cerca di imporla. Sampras è più democratico, cioè più caotico, ma anche più umano. Sembra che il suo vero compito sia capire qual è esattamente la sua volontà. In pochi ricordano che in realtà Atene ha perso la guerra del Peloponneso. Ci sono voluti 30 anni, ma alla fine Sparta l'ha superata, l'ha spuntata. E in tanti non sanno che è stata Atene a cominciare tutta quella maledetta faccenda attaccando briga con gli alleati marittimi di Sparta che si intromettevano nei commerci via mare di Atene. L'immagine di un'Atene simpatica e per bene, ormai un po' frusta, tanta fatica per una questione. Fin dall'inizio legata al commercio, che chi esce poi non rientra più. La pazienza dei newyorkesi per folle, file, frodi e attese fa davvero effetto se non ci sei abituato. Se stanno buoni in luoghi asfittici per periodi lunghissimi, negli occhi quella combinazione puramente newyorkese di meditazione zen e depressione cinica, un'infelicità dichiarata mai condotta da una lamentela. Meglio che non ve lo dica quanto costano queste cavolo di bandane agli US Open. Essendo agli US Open del 1995, essendo gli US Open basati sull'economia, quindi sul commercio, ed essendo il commercio per sua natura incontenibile, c'è davvero poco da stupirsi se al crepuscolo il commercio più accanito si tiene qua fuori, oltre alle recensioni, in mercati di ogni genere e specie. Io, per dire, negli ultimi 20 minuti ho ricevuto ben 3 sollecitazioni a comprare erba, sempre spaurosamente cara. E ora vi lascio con la canzone di Virginia Miller sulla verità del tennis. Buona serata e buonanotte. Nessuno lo sa, no, nessuno. nessuno immagina che ci penso ancora. Nessuno sa, nessuno immagina che mi manchi ancora. Nessuno sa che pensando a te io mi masturbo ancora. La verità sul tennis nessuno sa, nessuno immagina. La verità sul tennis nessuno sa, nessuno immagina. Solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.